Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao Mazzoni. Scusi, ma ho avuto un po' di contrattempi. Comunque è tutto pronto. Allora, questa è la ricerca. Grazie. E poi ho fatto anche il sito per sua moglie. Ti volevo parlare, Mazzoni. Il concorso è andato male. È arrivato un candidato più meritevole di te. Da quando in qua vince il merito, scusi? Ma poi chi c'è più meritevole di me? Io voglio nome, cognome e curriculum. Nome, cognome e curriculum. Questa volta faccio riconsaltare, Calma, Mazzoni. Ma che calma, Mazzoni? Calma, Mazzoni. Io ho 11 anni che sto calmo. Ma io ho 11 anni che lavoro per lei. Insegno per lei. Faccio esami per lei. Faccio ricerche che poi lei firma. Ma non è colpa mia. De Fornaris ha scelto Pino Conca. Ma chi è Pino Conca? Il marito della figlia. L'aveva preso nel suo studio privato. Ma il ragazzo è scemo. Perde tutte le cause. Mi faccia capire il nesso. Questo è scemo, quindi fa carriera all'università. Tranquilli, tranquilli nelle vostre grisaglie, nelle vostre poltrone, nei vostri atenei. Oggi parliamo di fiction, parliamo di fantasia, parliamo di una sceneggiatura che è un testo teatrale, quindi si parla di teatro, non di realtà. Pensate che c'è un giovane ricercatore con merito che sta recitando in teatro una storia totalmente fantastica, irreale, ipotetica, non ha nessun fondamento sulla realtà, nessuno è coinvolto. Se qualcuno pensa di essere coinvolto è un errore senz'altro, un fraintendimento, chiariamo subito, che racconta quanto sia difficile oggi farsi strada per merito nelle università italiane. Voi pensate che è talmente interessante, divertente e fantasiosa questa sua ricostruzione, che parla di baronati, di professori che privilegiano dei candidati che non hanno merito, di persone che hanno dei titoli importanti ma in realtà poi vanno a un colloquio e si vedono smontare tutta quella che è la loro attesa di avere finalmente un posto in università. Si parla di rettori di università che assumono i loro parenti, cose che assolutamente non esistono in realtà. Per oggi di questo parleremo. Quanti di voi che ci ascoltano, so che è un pubblico variegato, hanno tentato, stanno tentando o da decenni tentano di farsi strada nell'università? Perché hanno studiato, perché hanno pubblicato, perché hanno viaggiato, perché si interessano della disciplina e della materia in cui si sono laureati, specializzati, su cui hanno fatto comunque seminari, concorsi. Ma in realtà vedono passare gli anni, si vedono passare avanti persone che assolutamente non hanno nessuna dignità accademica. In realtà questi personaggi di cui stiamo parlando danno esami, sostengono esami, scrivono pubblicazioni, scrivono libri e poi pubblicano i professori a loro nome, come nella fiction che avete sentito con Paolo Ruffini. Beh, tutto questo in un ipotetico paese non dovrebbe funzionare, se l'università poi è il perno della ricerca, il perno della dignità accademica, è il perno su cui si articola tutto il pensiero, la creatività di un popolo come quello degli italiani. Sono sempre eccelsi nel campo dell'inventiva, della cultura, della creatività. Beh, oggi di questo vorremmo parlare. Quanti di voi che stanno cercando disperatamente di farsi strada all'interno dell'università, quali sono le difficoltà? Ci sono delle difficoltà oggettive, al di là di quello che si legge sui giornali quando diventa caso giudiziario, quando si entra in una sfera di reato penale. Ma quando questo non avviene, esiste un'area limacciosa in cui tutti sanno ma nessuno dice, in cui ci sono delle regole non scritte, in cui la persona sa che deve aspettare perché c'è qualcun altro prima di lui, e la persona sa che comunque sia, dopo anni e anni che si è data da fare, che si è prodotta, che ha lavorato, che ha studiato, che ha faticato, che ha messo davanti ad ogni altra realtà quotidiana, affettività, piacere, soddisfazione, hobby, il desiderio lecito di entrare nell'università, di produrre ricerca, di produrre pensiero, di insegnare a studenti quello che lui ha capito, quello che lui vede, e si è visto un presente preclusa questo tipo di carriera. E quanti hanno rinunciato all'università? C'è un film bellissimo italiano che fa vedere un gruppo di giovani ricercatori, tutti eccellenti nelle loro materie. C'è un chimico, c'è uno specializzato in ingegneria industriale, un altro bravissimo nell'organizzazione del lavoro, c'è un medico, c'è una serie di scienziati che potrebbero diventare una sorta di pool di cervelli, potrebbero far progredire l'industria, il commercio, la cultura. In realtà fanno dei lavori banalissimi, uno fa il fattorino, l'altro fa il cuoco, e decidono improvvisamente di elaborare una fantastica droga droga che non ha all'interno nessuno degli elementi che vengono indicati come elementi proibiti e si mettono a spacciare droga e diventano improvvisamente ricchi, acquisiscono quel prestigio sociale che non avrebbero avuto mai studiando, perché loro fingevano, andavano a cercare dei lavori banalissimi fingendo di non essere laureati. E per paradosso gli diceva al datore di lavoro: ma tu sei laureato? Confessa: no, ma sono ignorante. Perché? Perché c'era questa sorta di pletora enorme di persone brave, laureate, specializzate, che facevano lavori umili. Perché? Perché l'università era loro preclusa. Alla fine la cosa più bella di questo film, ormai vi faccio lo spoiler, che è un film che da qualche anno, un paio d'anni, nelle sale, si accorgono che il capo dello spaccio della droga in Italia, anche lui era un super laureato che in realtà, trovandolo a fare altro, si era messo a fare il delinquente. 800240024, questa è tutta fantasia o c'è qualche barlume di realtà? Ci direte voi tra poco. Melog, cronache meridiane. Vi ho citato Smetto quando voglio, il film che rappresenta l'apoteosi dell'arte di arrangiarsi da parte di giovani menti eccelse che potevano avere un posto in università ma non ce l'hanno avuto, e nemmeno nel mondo del lavoro. Invece il libro di cui stiamo parlando è un libro non pubblicato, quindi per la prima volta facciamo una recensione o discutiamo di un libro che non è in libreria. È un libro che è diventato però un monologo teatrale, perché in qualche maniera chi l'ha scritto ha voglia di raccontare queste cose. Il libro inedito si chiama Università e puttane e il suo non autore è Matteo Fini. Matteo Fini, buongiorno. Buongiorno a voi. Matteo Fini, leggo la sua biografia: attualmente lavora nell'ambito della formazione aziendale, è dottore di ricerca in statistica con una pluriennale esperienza accademica di 8 anni come ricercatore docente presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, Università degli Studi di Milano. Lei ha pubblicato un libro per Cairo Editore nel 2010, Non è un paese per bamboccioni, un libro che ha fatto parlare molto, che ha raccontato storie di giovani italiani che non ce l'hanno fatta. Questa mattina racconta la storia di un giovane italiano che non ce l'ha fatta. Possiamo immaginare, presumere che questa storia abbia dei risvolti autobiografici, ma visto che qualcuno l'ha minacciata se questo libro uscisse, anche se in maniera indiretta, facciamo finta che questa sia la storia di un povero giovane sfigato che lei ha immaginato nella sua mente. Come inizia questa storia? Allora, le viene da ridere, mi fa piacere che le venga da ridere. Ma sì, ormai mi viene da ridere, perché puoi immaginare come sia buffo il fatto che io sia qui con te a parlare di un libro che non c'è in realtà. Questo è il paradosso. È il paradosso. Sembra quasi uno di quei racconti di Natale, capito? Esattamente. In realtà è diventato il suo bello e quindi mi fa anche sorridere. Certo, all'inizio tutto nasce dal fatto che io, avendo lavorato tanti anni in università, quando ho voluto pensare un libro nuovo, ho detto: ma perché non racconto questo mondo che, di cui in realtà tutti parlano ma nessuno conosce realmente nella profondità? Le dico la verità, Matteo Fini, il suo racconto l'ho sentito fare da decine di miei amici che stanno nell'università. Assolutamente, ma infatti sono decine e decine di testimonianze che mi stanno arrivando ancora oggi, ancora stamattina mi hanno scritto dei ragazzi per dirmi: ho letto questa cosa in cui parla della tua storia, del tuo libro, io mi ci rivedo totalmente. Ma infatti quello che la gente non ha capito è che non è la storia mia, è una storia banalissima di tutti che semplicemente abbiamo provato a raccontare per filo e per segno. Cominciamo per filo e per segno. Lei è un giovane laureato, brillante laureato, decide: io voglio stare nell'università perché questa è la mia carriera, mi sento tagliato per questo lavoro. Come inizia, diciamo, qual è il primo passo? Innanzitutto hai già sbagliato, perché non è vero che decide, è sempre qualcuno che te lo propone. Beh, le piacerebbe, però la proposta magari uno ci pensa, magari uno ha una forte passione per lo studio, eccetera, quindi magari dice: cacchio, potrei fare la carriera universitaria, ma in realtà è un pensiero che ti sfiora leggermente. Quindi se non ti chiamano è inutile pensarlo. Questo indubbio, cioè se non c'è un professore che ti dice: ma perché non fai un dottorato di ricerca, allora ha senso provarci, se no non ha assolutamente senso, perché tutte le borse di studio al 90% sono già piazzate, per cui andare allo sbaraglio è veramente difficile. Io stesso, visto che questa è una storia fantastica chiaramente, ma ci sono anche dei risvolti personali, nel senso che porto anche la mia di esperienza un po', io stesso ho fatto 2 concorsi, quando ho fatto il concorso del dottorato, ho vinto più di uno, ma con la borsa solo, diciamo, nella mia facoltà. Invece nelle altre facoltà potevo vincere, ma non potevo vincere la borsa. Era quasi matematico. E questo nessuno, non c'era scritto da qualche parte, non era una postilla alla domanda di ammissione. Si sapeva. Chiaramente. Va bene, allora, quello che pensa che sia una botta di culo, in realtà c'è qualcosa sotto che non funziona. Ti chiama un professore, tu dici che bello, ma ha chiamato perché sono bravo, essendo lei di genere maschile, non so se avvenente particolarmente, no? Nel mio caso, sì, in realtà io ho un caso un po' particolare, perché io ho studiato una facoltà di scienze politiche, dove mi sono laureato in scienze politiche, appunto, ma poi ho fatto il dottorato in statistica passando attraverso un professore di matematica, per cui una storia un po' bizzarra. Certamente il prof di matematica deve aver visto in me o un pazzo, perché da scienze politiche si metteva a studiare i metodi quantitativi, o una persona con almeno un po' di valore, insomma, per cui deve aver detto: questo ragazzo magari è in gamba, proviamo a portarlo avanti. Va bene, quindi poteva essere una fortunata esperienza, invece? E invece è stata una bellissima esperienza a tratti malinconica, in cui tu entri praticamente in un campo di battaglia, in cui cerchi di difenderti tutti i giorni, capisci più passano i giorni come funziona il sistema, perché tu quando i primi giorni non lo sai, pensi che studierai, diventerai bravo e per questo andrai avanti, ci credi veramente, quando inizi ci credi sempre, e poi però ti rendi conto dopo poco, in realtà 6 mesi, 1 anno, hai già capito che non conta quello che fai, ma conta chi conosci, e soprattutto conta quanto chi conosci sarà in grado di portarti avanti, indipendentemente dal fatto che tu sia bravo o non bravo, perché se ci pensi la cosa frustrante non è per quelli scarsi, è per quelli bravi che ce la fanno, anche quelli che ce la fanno. Chi è scarso deve solo ringraziare la Madonna ogni giorno che vive, che sopravvive in quel sistema, quindi chi è bravo ha qualcosa che ha portato dietro, su cui si è impegnato, e quindi ha qualcosa da rimettere. Ma esiste, esatto, un sistema simile a quello dello scambio delle coppie, cioè un professore si mette d'accordo con altri professori dicendo: io ti piazzo uno dei tuoi, tu piazzi uno dei miei, qualcosa del genere? Beh, è una domanda retorica? No, domanda ingenua, non lo so. Sì, no, è assolutamente così, nel senso: io oggi faccio un favore a te, tu domani fai un favore a me. Oggi c'è il posto nella mia, diciamo, facciamo un esempio, oggi c'è il posto a Milano, no? A casa mia, vieni tu a farmi da commissario, perché il commissario deve essere sempre esterno, e poi domani verrò io a fare il commissario nella tua facoltà, quando ci sarà da portare avanti il tuo candidato. Insomma, è un gioco che veramente, in realtà, cioè, si sa, non è che lo racconto io, una roba si sa così. Basta dirlo, siccome non lo dice mai nessuno, diciamo. Allora, fermo un attimo, abbiamo le prime telefonate, 800 24 00 24. Grande sfida oggi, chiamo nell'ora del desinare a parlare alla radio. Giovani ricercatori in questo momento staranno scaricando pacchi, portando in giro i cani, facendo pulizie nelle scale, saranno impegnati ai loro lavori quotidiani da giovani scienziati, e naturalmente non avranno tempo di chiamare. Però Chiara ha avuto tempo. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono la moglie di un ex ricercatore. In questo momento dov'è suo marito? A fare il manovale in qualche cantiere, probabilmente? No, ma penso preferirebbe molto di più fare il manovale che quello che fa. Comunque, cosa fa invece? Allora, adesso lavora in un istituto dove si fa ricerca sul recupero. Beh, quindi fa il ricercatore. Degli edifici antichi con risparmio energetico, che non c'entra niente con la sua laurea. Beh, però è un bel lavoro comunque, non è brutto. Sì, è un bel lavoro, un buon gruppo, per fortuna non è più all'università, perché ormai ci voleva lo psicologo per mandarlo avanti. Quanto ha incrinato il vostro rapporto la sua frustrazione professionale? Cioè, nel senso, quando si lamentava cosa diceva? Questo voglio sapere. Si lamentava del fatto che non c'erano orari, non c'era rispetto, non c'era meritocrazia, non c'era stipendio. Quindi lavorava gratis lui? Non gratis, ma tipo quando è nato mio figlio, noi per un mese e mezzo non abbiamo avuto uno stipendio, tutti quanti: ah, che bello, stai a casa con tuo figlio, sì, ma il mutuo lo paga chi? Quindi, insomma, poi siamo stati all'estero 1 anno perché c'era in previsione il famoso concorso. Invece? E dopo 11 mesi questo concorso non viene fatto, e dopo 12 anni lui si è stancato e ha trovato un annuncio, ha risposto e abbiamo cambiato completamente vita. Quindi 12 anni di attesa nella speranza che si concretizzasse. Sì, laurea specialistica, insegnava all'università, teneva corsi, e ha partecipato a... Faceva lezioni, scriveva le pubblicazioni del professore. Bla. Sì. Sì. E come l'hanno congedato? Quando ha visto una persona entrare al posto suo, com'è stata la giustificazione? Diciamo che l'ha fatto lui prima che questo succedesse. Perché stava per accadere, era nell'aria. No, non era nell'aria. Secondo me il professore credeva che lui non avrebbe mai tagliato questo cordone. Sembrano rapporti quasi morbosi, familiari a volte, quindi... come averci, diciamo, uno schiavetto. Si è aperto un mondo comunque, eh? Alla fine tutto questo... Lui era molto portato per l'insegnamento, secondo me. Era una cosa che gli sarebbe piaciuta e avrebbe servito a molti studenti un professore come mio marito, secondo me. Però ci ha aperto un mondo, andare all'estero un anno, cambiare vita. Adesso dovremmo cambiare casa perché lui lavora a 2 ore da dove noi avevamo comprato casa, pensando che lui avrebbe avuto il posto all'università. Ma questi 12 anni, Chiara, sono stati buttati via, secondo lei? Beh, se guardiamo come si muove il mercato italiano, lui è al limite, lui ha 38 anni, è quasi al limite per cambiare lavoro, per... Quindi questi 12 anni, tutto sommato, se invece coltivare un'illusione, avesse risposto prima un annuncio, oggi era più inserito in lavoro. Sì, molto chiaro, però, Mario. C'era il coraggio. Non c'era il coraggio, lo so, perché c'è anche un rapporto attaccati. Di dipendenza. Sì, poi pensa uno che il professore, in fondo, si sente sempre... È come quelle donne che alla fine difendono chi le mena, perché in fondo dice, ma in fondo mi ama. Ecco, la stessa cosa. C'è sempre l'idea che in fondo il professore ti stimi, quando in realtà stima più probabilmente la tua collega, che è molto più generosa nell'apertura, diciamo, di mente. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Ascolti, io volevo raccontare due cose velocissime, perché può essere personali, lascia il tempo che trovano, però è il significato. Laurea, 110 lode, tante belle cose... essere ostacolati anche nella tesi, perché si attaccano interessi complessi, fare un concorso che ha a che vedere con la propria disciplina, arrivare prima alla preselezione e venire sbattuti fuori per problemi, diciamo, amministrativi. E tutto questo in una facoltà che poi ha promosso il peggiore come presidente di un'area marina protetta. Quindi, ma perché, qual era, diciamo, la risposta che si è data? Parentele, clientele, intime d'azioni, cosa c'era dietro? Guardi, è una parola semplice, è gestire un posto pubblico di conoscenza come un'azienda privata. Quindi se una persona ha delle idee, non bisogna farla andare avanti, perché potrebbe prenderti le consulenze che di solito fai tu. Se qualcuno ha un'idea diversa, potrebbe dragare finanziamenti, quindi non è il caso di dargli spazio. Ah, quindi l'idea è prendere fondi destinati alla ricerca, non fare ricerca e spartirsi fondi per farsi, non so, i computer, i viaggetti, le suppellettili e mettersi in... Non in maniera così greve, fare ricerca solo nel tuo piccolo campo, che poi non porta innovazione, perché è una ricerca di servizio, cioè si tratta di report classici, e non provare ad andare più là, non far crescere nessuno, solo coloro che stanno zitti, e poi l'ultima cosa è chiudere, lascio spazio agli altri, il recruitment dei dottorati. Io, le persone che conosco che hanno preso un dottorato, hanno tutti avuto il dottorato proposto e col compito scritto il giorno dell'esame di dottorato. Cioè è più che ad persona, dire ad persona già presupporrebbe un minimo più di possibilità per altri, è più che per ad persona, è una sorta di fulminazione, s'apre il cielo, scende il fulmine e dice tu avrai un dottorato, e in quel momento lo diventa. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Che stai a fare? Lo vedi che non sei adatto. Ma questo le assicura un periodo emotivamente molto difficile. Senti, raga, fatti l'esperienza di vita. Mettetene in guai. Vivete la strada. E poi magari ridurre. Sì, grazie per il consiglio. Prima di cadere in Italia alla ricerca del 2007, Andrea era uno dei massimi esperti in Italia di antropologia culturale. I suoi saggi sullo studio olistico dell'umanità sono tradotti in oltre 50 lingue. Andrea ci trasformerà, capito? Non c'è categoria umana che lui non conosca, che non sappia in qualche modo emulare. Ci renderà proprio affini con l'uomo del crimine. 800240024, dedichiamo questa trasmissione dedicata a un libro che non è stato mai pubblicato ma che tutti vorrebbero leggere, Università e puttane. Il non autore è Matteo Fini, che lo ha scritto ma non può pubblicarlo, non sappiamo perché, ma però parliamo di quello che c'è attorno a questo libro, di fantasmagorico, di fantastico. Io dedico questa trasmissione a un giovane laureato in filosofia della religione che ambì anche lui a diventare dottorando all'università italiana. Non gli fu possibile perché il concorso non prevedeva una clausola che doveva essere affiliata a una grande organizzazione religiosa, e quindi si vide passare davanti una ragazza che era molto pia e molto dedica alle pratiche religiose, e quindi emigrò a Parigi e fece il dottorato a Parigi, ma anche lì trovò la sua vocazione frustrata e quindi fu ridotto a occuparsi di Melog assieme al professor Chiappini, che anche lui è laureato in coda alla vaccinare, quindi insieme fanno lo staff di Melog. Questo è un esempio di quello che produce l'università italiana. Matteo Fini, rispetto alle esperienze dei suoi colleghi, trova delle similitudini? Poi volevo anche chiederle, le faccio subito la domanda, leggo nella non prefazione del suo libro non pubblicato che l'iter regolare perché ci sia un concorso è che un dipartimento, una facoltà ha un posto libero, bandisce un concorso, si presentano i candidati, si nomina una commissione, la commissione valuta i candidati secondo i loro meriti e proclama il vincitore. In realtà succede esattamente il contrario: si sceglie uno che deve vincere, si fa un concorso su misura e si fa vincere questa persona. È esattamente così, è indubbio e innegabile. Per quanto riguarda le testimonianze che abbiamo sentito al telefono, ovviamente mi ritrovo. Riconosce i fratelli? Assolutamente sì, ma come anche, ripeto, tantissime migliaia di persone che mi hanno scritto in questi giorni, non ultimo ancora stamattina, per dirmi grazie, perché quello che tu racconti è quello che io vivo, e quindi c'è bisogno di poche parole. Chi ha fatto questa vita sa benissimo di cosa stiamo parlando, e che è così, cioè non conta quanto sei bravo. Ma lei vive sotto c'è un programma di sorveglianza per la sua tutela? No. Per ora no. Ma cosa hanno messo? Una testa di cavallo attaccata alla porta? Come mai non ha pubblicato questo libro? No, tutto nasce dal fatto che ho pubblicato su Facebook, sui social, insomma alcune parti mentre lo scrivevo, e questo è bastato, ma ripeto, cose veramente generali, se andate sulla mia pagina Facebook le ritrovate ancora perché non ho tolto niente, cose veramente generali sono bastate per far sì che alcune persone, miei ex colleghi o comunque l'hanno minacciato. Italiana, mi hanno mandato delle lettere d'avvocato, delle diffide a casa. Beh, si chiama coda di paglia, scusi, se non aveva nemmeno nominato. Bravissimo, non ho detto niente, nominato nessuno, eppure queste persone hanno pensato bene di dovermi fermare. Scusi, ma mi corregga con una bestialità, ma sembra che il rettore di Università Grosso della Sapienza abbia dentro vari parenti in università, o sbaglio? Allora, questo è molto probabile, è uscito un volume qualche anno fa, si chiamava Parentopoli, che analizzava proprio queste cose, storie di famiglie all'interno di nuclei universitari, dipartimenti, facoltà, eccetera. Però questo è un po' il meno dei problemi universitari, paradossalmente. Beh, quasi sì, per dire. Sì, sono bravi, non possono essere segnati dallo stigma di avere un padre rettore, questo è vero. Esatto. Un cognato, un nonno, un suocero, uno zio, un tutore, un manutengolo, qualunque cosa sia. Questo mi sembra giusto. Sentiamo qualche suo collega. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. No, io sono un esempio così vivente di questo sistema che ormai conosco da quasi 32 anni. Cioè, io sono figlio di immigrati campani che sono andati all'estero in Germania. In Germania uno dei primi figli di emigrati a fare la maturità e a laurearmi, e nell'84 torno in Italia, per un certo verso vittima della mia nostalgia per l'Italia, l'infanzia che avevo passato in Italia, e in qualità di lettore di lingua tedesca. I lettori sono insegnanti, sì, di madrelingua, no? È il primo gradino, fa il lettore, poi dopo prova a entrare dentro l'università e sono in qualche maniera integrato. Faccio diversi concorsi per professore associato. Tra l'altro nel 92 c'era una cattedra di lingua tedesca presso l'Università di Udine, di lingua tedesca. Io, essendo perfettamente bilingue, sono laureato in Germania, quindi ho partecipato a questo concorso. Niente. Chi ha vinto al posto suo? Ero tra i cinque citati a Roma, però c'erano quattro posti, e quindi alla fine io non sono stato preso perché ovviamente non avevo i rapporti, non avevo la protezione. E cosa fa adesso? Dopo tanti anni cosa fa? Niente, adesso sono stato costretto, continuo a fare il lettore presso l'Università di Udine, e ho intrapreso la carriera di giornalista. Infatti sono un giornalista italo-tedesco che collabora con diverse testate nazionali tedesche. Sta collaborando con testate tedesche? E quindi ho scritto dei libri su, ad esempio, su biografie molto così riconosciute in Germania, su Falcone, Agnelli e via dicendo. E in Italia continua a fare il lettore, fa il lettore praticamente. Sì, faccio il lettore, però ho fatto ricorso a quel famoso concorso. Dopo vent'anni non ho ricevuto, si è risolto tutto in nulla di fatto. Dopo vent'anni, una cosa assurda. Beh, una bella storia. Antonio, sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia storia è una linea mediana fra tutte quelle che sto sentendo, perché io sono all'università da 22 anni, ho cominciato con un contratto annuale e sono ancora così, però per scelta, perché le cose che sentivo della fiction, insomma, non sono lontanissime dalla realtà. Una docu-fiction, in effetti, si fonda su ipotesi che potrebbero avere eventualmente, nel caso uno approfondisse, qualche margine labilissimo di verosimiglianza. Però è fiction. Sì, alcune cose le ho vissute indirettamente, ovviamente, eccetera. Non ho mai voluto investire su un concorso, né prima né dopo la riforma, perché ho visto che è una gran fatica. Perde solo quindi, tempo. Sì, sostanzialmente sì, se non sei affiliato a una corrente, come se fosse in un partito. Ma cosa sono queste correnti? Da cosa fanno capo? A un maestro, un caposcuola. C'è un professore, c'è una sua corrente. Diciamo. C'è una sua corrente, seleziona gli allievi da inserire solo secondo certi criteri. Senta, ma quali sono i livelli diciamo di servilismo che arrivano? Poi quelli rispetto ho letto, forse me lo sono soltanto inventato, non so, di persone vanno a fare la spesa al professore, gli accompagnano i figli a scuola, gli puliscono casa, sono sempre poi parlo di prestazioni, non parlo delle innominabili prestazioni, quelle rientrano in una sfera privata. Guardi, molto onestamente non ho mai personalmente potuto constatare casi del genere, però so che esistono. Io le posso dire della mia esperienza, io sono passato attraverso 3 o 4 università. All'inizio, siccome il Dominus, preside, rettore, adesso non ricordo, che 20 anni fa, selezionava su base meritocratica, e quindi ho avuto questa fortuna. Ah beh, ho avuto fortuna, sì. Ho avuto fortuna. Dopodiché però, quando ci sono stati gli avvicendamenti, lì poi è entrata la politica, queste cose di cui stiamo parlando, e mi sono allontanato mano a mano da questo ateneo, e poi ho trovato alla fine un equilibrio. Vabbè, lei ha trovato un suo equilibrio. Un equilibrio zen, la sua è una soluzione zen al problema. Un equilibrio dato dal fatto che un ateneo mi ha dato asilo culturale, per così dire. Va bene, il consiglio culturale è già sempre mal niente. Severino, buongiorno. Sì, buongiorno. Io posso confermare quanto già detto da tutti gli altri che sono stati sentiti nell'ambito di questa trasmissione. Posso confermare anche che parecchi si prestano a dei servizi tipo di autista o quant'altro. Per prendere c'è questa il professore, confermo. Com'è, Severino? Non chiamano donne oggi, chiamano soltanto uomini. Nella vasta gamma delle persone che vengono segate, come mai stanno più silenziose? Le giovani ricercatrici ne saranno tante. Perché no, riescono, mi consenta, penso che abbiano altri argomenti per andare avanti. Lei sta facendo una dichiarazione fortemente maschilista, vorrebbe dire che l'intima d'azione sostituisce molte volte anche il merito in queste carriere. Sì, assolutamente sì, sì. È una cosa che mi fa tremare le vene nei polsi, ma accade questo? Accade anche questo. Mercimonio fisico nei confronti del professore. Accade anche questo. Una cosa veramente inaudita, incredibile, non avrei mai pensato. Come accadono anche raccomandazioni provenienti dai più svariati settori, oltre che politica, anche dal settore religioso, mi consenta, insomma, di poter evidenziare anche questo. Gli arcivescovi e i cardinali raccomandano giovani nell'università. Questa è una cosa veramente. Assolutamente sì. E mi assumo anche la responsabilità. La trovo veramente incredibile. Qualcosa del simile mi disse Intonti al tempo che lo segarono al dottorato di ricerca di storia delle religioni. Entrò uno che era più fortemente affiliato a un'organizzazione religiosa. Però questo mi sembra veramente incredibile. Ovviamente questa mattina, tra secolo, arrivo a ascoltare cose che le mie orecchie mai avrei voluto ascoltare. Addirittura raccomandazioni di preti per entrare nell'università. Fermiamoci un attimo. 800 24 00 24. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Oh, 800 24 0024. Mi sto rimettendo dalla delusione, dal dolore che ho provato nell'ascoltare le testimonianze di questi ricercatori che hanno studiato, hanno approfondito, hanno viaggiato e sono contaminati con il mondo e la cultura e si trovano sorpassati da persone senza merito per un sistema mellifo, limaccioso, vischioso che permane nella nostra università, di cui tutti sanno ma cui nessuno dice, per cui non è il merito a vincere ma vincono delle piccole consorterie familiari gestite comunque dai grandi baroni dell'università. Tutto questo era racchiuso in un libello, L'università è puttane, che non è stato mai pubblicato. Tutti mi stanno scrivendo dove si compra questo libro, lo voglio leggere, ma questo libro non si può leggere perché non è stato pubblicato. Melita, buongiorno, finalmente. Buongiorno a lei, le chiedo scusa, volevo solo intervenire per dire che io sono nel, ho frequentato l'ambiente universitario, ho fatto medicina da 45 lei anni. Lei cosa fa Belita adesso nella vita? Io sono pensionata. È una pensionata? Sì. Eh sì, ho iniziato a Napoli e mio patrigno era medico. Io ho visto le donne che si guadagnavano l'esame seduti sulla scrivania del segretario capo dell'università con i seni fuori. Le chiedo scusa. Ma che anno era? No, beh, seno mica si può dire. Ma che anno era? Scusi Melita, perché bisogna 45 anni fa, 45 e 40 anni. Ma lei fa. Ha visto questa scena? Non è che se l'ha immaginata. E lei dove stava? Nascosta da qualche parte? Non faceva vederla? Sì. No, no, io andavo in segreteria a presentare dei documenti per, non mi ricordo, per un esame. Entrava senza bussare e vedeva questa scena veramente... No, no, no, bussando, non c'era nulla da nascondere in queste cose, era un dato di fatto. E le dico, un mio professore di un esame... No, no, scusa, Marita, adesso non voglio indulgere nella morbosità. Lei ha detto una cosa pesante, che ha visto una signorina ignuda sulle ginocchia di un professore. Assoluta, sulla scrivania abbassata verso il capo segretario. Un mio professore... Vabbè, è stato un episodio sporadico, un momento di follia amorosa. Ma quale follia? Gentilissimo signore, quale follia, è un fatto ricorrente. A me un professore di un esame molto pesante di medicina dove mi ero bloccata mi ha chiamato per aiutarmi a studiare in un orario serale e mi ha detto chiaramente che se io vado a letto con lui mi dà l'esame. Vabbè, Benita, lo so, questa è una cosa tristissima, è una vessazione che avviene in qualsiasi campo del lavoro, non è nello specifico universitario. Prendo atto con dolore della sua esperienza che l'ha traumatizzata e tutta la vita se la porta ancora dietro, si sente anche dal tono della sua voce così rotto dal dolore, dall'emozione per quello che ha visto e quello che ha subito. Sono con lei, l'abbraccio e passo a Massimiliano. Ciao Gianluca, io chiamavo per parlare della mia storia. Oltre a confermare tutto quanto, a me è stato proposto un dottorato in storia della psicologia, l'ho provato e sono stato il primo vincitore senza borsa. Ora volevo parlare appunto del dottorato senza borsa, che è una stortura solo italiana, cioè in pratica io dovrei lavorare per l'università per 3 anni non solo gratis ma anche pagando le tasse, che sono tipo 2.000 euro, 3.000 euro l'anno. Però scusi, quindi... quando uno fa il concorso lo sa che è così? Sì, sì, sì, no, quello sicuramente, però è una roba che esiste solo in Italia, il dottorato senza la borsa di studio, insomma. Poi infatti ho rifiutato, però... Quindi uno, diciamo, ma qual è, diciamo, la controparte? Fai esperienza, conosci gente, ti contamini con il mondo della cultura, qual è? Sì, le pubblicazioni. Ah, si cioè, pubblica? Sì, pubblichi. In realtà cosa si fa? In questi 3 anni cosa si fa invece? Si lavora per l'università, cioè si lavora per il professore, quindi si fanno gli esami, si fanno le cose del professore in pratica. Cioè lei ha dato esami, cioè ha sostenuto, diciamo, ha sostenuto con candidati d'esame, ha fatto prove d'esame e metteva anche il voto? Io di persona no, perché io ho rifiutato il dottorato senza borsa, ma prima di fare l'esame del dottorato ho partecipato a degli esami come, diciamo, prima del... come cultore della materia, stava lì. Esatto, una cosa del genere. E poi certamente si correggono gli esami, si danno i voti, poi alla fine firma il professore, ma si fa il lavoro del professore. Beh, è utile, mi piacerebbe avere qualcuno che io vado a spasso la mattina e parla qui al posto mio. No, perché a me piace il mio lavoro, ma in generale sono dei lavori, gli asfaltatori di strade amerebbero avere qualcuno che dà il bitume alle 2 di pomeriggio alle strade italiane e loro se ne stanno al bar. perché non accade per gli asfaltatori di strada e deve accadere per i professori universitari. Matteo Fini, ricordo, attualmente lavora nell'ambito della formazione aziendale, dottore di ricerca in statistica con una pluriennale esperienza accademica di 8 anni come ricercatore e docente. Quello che dice il suo fratello e collega sui dottorati senza borsa? Tutti gli interventi che ho sentito, anche questi ultimi, sono assolutamente pertinenti. Il dottorato senza borsa è assolutamente una struttura logica, come ricordava Alessandro, se non ricordo male, perché è vero, tu almeno avessi il tempo di studiare in quei 3 anni senza borsa. Nemmeno puoi fare ricerca. No, il tempo lo spendi per fare robe che non dovresti fare, dalla didattica. Fai lo schiavetto del professore, fai praticamente. Sì, nella maggior parte dei casi sì. C'è da dire, sugli interventi che ho sentito, vorrei fare solo 2 precisazioni. Uno sul discorso donne, secondo me non c'è questa... Ma infatti mi sembra un po' luogo comune, anche perché esatto, oggi diciamo... Il discorso non è quello. I gusti nel campo delle preferenze sessuali sono molto variegati, vale per le donne come vale per gli uomini. Se c'entra, diciamo, in mezzo il mercimonio di tipo sessuale, come la spada di fuoco, uomo donna, tocca a tutti. Questo mettetevelo in testa, prego. Esatto, e poi volevo precisare che non sempre... vieni scavalcato da uno che non merita, a volte vieni scavalcato da uno che merita tanto quanto te, ma semplicemente aveva l'appoggio più forte. Infatti la mossa che bisogna fare non basta essere scelti da un professore all'inizio, ma bisogna avere la fortuna di essere scelti da un professore che sa muoversi e che sa portare avanti i propri interessi, tra cui te, che sei un suo interesse. Ecco, come può diventare, però, metta caso, Matteo Fini, sì. Lei non ha nessun santo in paradiso, non rappresenta nessun potere politico. Qual è il vantaggio che ha un professore a investire su di lei comunque? La sua bravura può essere un punto di vantaggio per il professore, quindi cioè io ti metto nel mio meccanismo, se vuoi perverso ma efficace, di clientela perché tu mi servi alla fine. Cosa può dare? Parlo per estremo cinismo e come ultima razza. Io sono bravo e convinto che sono un'eccellenza nel mio campo. Posso farcela anche se mi faccio crescere un pelo sullo stomaco? Cosa posso dare in cambio? Non so se mi sono spiegato. Sì, penso di sì. Poi non lo so, però sicuramente ti devi fare un grosso pelo sullo stomaco, ok, sei bravo, ok. Ovviamente il professore da te può ricavarne almeno una qualità, indubbia se ce l'hai. E ci sono ovviamente anche professori che virtuosi, voglio dire, che credono... Sì, non generalizziamo, certo, sì, ne conosco un'infinità. Chiaramente. Sì. Per cui insomma uno studente bravo che diventa un ricercatore bravo fa diventare bravo anche te, fa migliorare te se hai voglia di aggiornarti e fa migliorare il tuo corso di laurea, le tue ricerche, le tue pubblicazioni, tutto il resto. Se poi questo bene diventa utile come moneta da spendere per far diventare il professore più potente all'interno del dipartimento, non lo so, anzi sono un po' titubante. Quindi non c'è nessuna chance, se anche io fossi cinico, essendo bravo posso sperare che esista una porta stretta in cui mi possa infilare. Ci sarà una guardi, io le dico, io ho cominciato la mia carriera di giornalista facendo una finta lettera di uno zio arcivescovo che non ho mai avuto. Ebbi il primo contratto in Rai così. Non me ne vergogno, era l'unica maniera. Mi chiesero chiaramente a un colloquio che feci per puro caso, ha qualcuno che può garantire per lei? Non avendo nessuno, scrisse una finta lettera di un arcivescovo che esisteva davvero, dicendo che ero suo nipote. Con quello feci il primo contratto. Poi chiaramente lavorai come una bestia così. Però se non ci avessi avuto quella lettera, nell'anno 1983, oggi non sarei qui a parlare a questo microfono. Sarei probabilmente a dare la benzina a una pompa di benzina, come facevo per mantenermi agli studi. Certo, ma infatti la cosa grave, ricollegandomi anche all'intervento del ragazzo che ha citato del 1992, in realtà la cosa grave di oggi noi non è che il sistema è marcio, ma è che noi l'abbiamo accettato e quindi tutti, bravi e meno bravi, sanno come si devono muovere per ottenere qualcosa e questo è bruttissimo ed è veramente povero di spirito e povero culturalmente. Negli ultimi 30 secondi ci dà qualche indicazione? Qualcuno mi dice come faccio ad avere questo libro? Io posso dire il sito www.matteofini.it, ma esiste un luogo clandestino in cui è possibile avere l'agognato libello? Allora, sul mio sito c'è la pagina che mi rende disponibili in download gratuito i primi 2 capitoli. Per ora è il massimo che ho potuto fare sentendo avvocati, mica avvocati, eccetera. Poi, se volete venire a vedermi in giro, stiamo cercando di portare questo racconto un po' in giro per l'Italia, quando ci vediamo ne parliamo, eccetera. Se poi il libro uscirà veramente per intero, tu, prima o poi, questo... Speriamo, e se un giorno avremo notizia di un corpicino innocente, piombato e trovato in fondo al Tevere, sapremo che è il suo. Alla prossima! Esatto, sarò io. Grazie.